Figlia d'Arresta, Argippo Osira è morta, ad altro pensar non dei che a soddisfar con nuova fede alla fe che violasti. Argippo muovere pria la mano al tuo amor desto. Debbo ancor questo soffrire? Ora, ministri, cingete il traditore d'aspre ritorte, componetelo ad uso di vittima dovuta al sacrificio. Spavilli il rogo, e dove più salti avvampa il fuoco, col sacro di Lieo, liquor s'asperga. Signor, ferma, se deve morire chi offese l'onor tuo, son io quel che deve morir. Che ascolto? Oddio! Se nascosto il commisi, or pubblico si sveli, io fui che a fronte d'Arcippo mio rival, sotto il suo nome fra tenebre profonde, strinsi con la tua figlia il sacro nodo. La colpa in me, signore, innocente quel rege, io traditore. Fiaccio vero? E tanto ardisti! Annoni! E alla morte d'Arcippo la tua sottentri! Ma padre, non pensar che quel ferro stender tu possa sul mio caro sposo, se per io non passa questo seno! Il sangue d'Osira